24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta anche oggi fino alle 9 con il nostro Filippo Aureggi in regia. Dov'è finito Peter l'Alpino? Non si sa, forse ci manderà qualche canzone delle sue oggi. Vabbè, su 24 mattino siamo anche con questa dicitura nella nostra pagina Facebook in diretta. Anche lì l'Alpino non si sa, ogni tanto si manifesta, ogni tanto no. In ogni caso, di cosa parleremo oggi nel nostro sondaggio? Parleremo del caso, a partire dal caso dell'arresto del sacerdote accusato di terribili crimini di pedofilia a Genova. Vi chiediamo, secondo voi la Chiesa fa abbastanza contro i preti pedofili? Perché questo è il tema che è stato rilanciato come dibattito. Ne parleremo alle 8:30. Voi votate su radio24.it. Ora la lettura dei giornali. In primo piano. Giovedì 19 maggio, il Sole 24 Ore si concentra sul fisco che accelera i controlli. Questo è il titolo di apertura, accertamenti legati al tenore di vita, una stretta su chi non paga le rate. Questo è in arrivo. E poi le aperture più che altro sono sulla politica, governo battuto, tensione tra alleati, questo è il Corriere. Per Repubblica, governo nel caos, 5 volte sotto. Libero addirittura titola governo terremotato. Per il Fatto Quotidiano, povero Silvio ricattato da Bossi e Scilipoti. Vedremo altre aperture poi dei giornali più avanti. Io però non voglio perdere tempo, andare subito alle segnalazioni iniziali. La prima la trovate su tutti i giornali, sono i nuovi dati dell'Istat che certificano in modo inequivocabile che non sappiamo più dire sì, come titola La Stampa, pagina 13, cioè ci si sposa sempre meno. Meno 30.000 matrimoni negli ultimi 2 anni. Avvenire lo mette in apertura, si dice sempre meno sì. C'è anche un editoriale di Domenico Delle Foglie a pagina 2 dal titolo Lezione da capire. Scrive Delle Foglie: queste scelte, queste rinunce vanno meglio indagate, dispiace dirlo, ma tanta cattiva pubblicistica sul matrimonio, sulla famiglia sparsa a piene mani in questi ultimi decenni, ma un dibattito politico, una progettualità legislativa sballati che per lunghi mesi hanno potenziato al massimo quella propaganda negativa e alternativa, prima o poi dovevano portare i loro frutti velenosi. Insomma, il dato di fatto inequivocabile che c'è su tutti i giornali è: ci si sposa sempre meno. Il boom dei matrimoni, la regione dove ci si sposa di più è il Lazio, ma sono 30.000, ripeto, i matrimoni in meno negli ultimi 2 anni. Tra le grandi regioni il calo maggiore è nel Lazio, ho letto la classifica al contrario. Il calo maggiore, meno 9,4% negli ultimi 2 anni in Lazio, in Lombardia meno 8%, in Toscana meno 6,7%, in Piemonte e Campania meno 6,4%. Insomma, meglio la convivenza fa risparmiare. C'è anche la crisi economica in questa scelta, secondo molti italiani. La seconda segnalazione, beh, la trovate anche questa su tutti i giornali. Dovremmo istituire davvero il premio idiota del giorno, inequivocabilmente, al regista Lars von Trier, che a Cannes, presentando il suo nuovo film e parlando della sua vicenda personale, dicendo: io ho scoperto in punto di morte, mia madre mi disse che il mio vero padre non era un ebreo danese ma un uomo di origini tedesche. E partendo da questa riflessione, sentite cosa dice Lars von Trier: ecco perché è una debolezza per l'estetica nazista, ecco perché comprendo Hitler, è un uomo, quindi ha il male dentro come noi tutti, non lo giustifico, ma lo penso spesso nel suo bunker, non è quel che si dice un bravo ragazzo, ma provo simpatia per lui, per Hitler, Certo, non ce l'ho con gli ebrei, anche se dopo aver conosciuto una regista ebrea danese, Susan Bier, avrei qualcosa da dire. E poi definisce Israele con una espressione che tradotta vuol dire una spina nel fianco, ma scrive il Corriere, lo diciamo eufemisticamente. E poi ancora Lars von Trier davanti a una platea attonita di giornalisti: e adesso come esco da questa storia? Beh, potrei inventare una soluzione finale per i giornalisti, no? Ok, sono nazi. E ancora, perché no? Noi nazisti abbiamo tendenza di fare cose su larga scala, potrei fare anche un blockbuster a Hollywood. Alla fine, dopo qualche ora, ha fatto un comunicato dicendo: se ho offeso qualcuno, mi scuso sinceramente. Non sono antisemita, non sono razzista né nazista. Se ho offeso qualcuno, ha detto, se ho offeso qualcuno. Se stesso, intanto. Allora, ci fermiamo. Questo è Lars von Trier, Delirio di Lars von Trier. Hitler, lo capisco, anche questo lo trovate anche in prima pagina, sui giornali, proviene dagli spettacoli, ma insomma si è conquistato con queste fondamentali battute una prima pagina dei giornali di mezzo mondo, questo regista. In primo piano. Alle 7:36 minuti, la politica, allora, i due sono gli eventi successi ieri che trovate oggi sviluppati sui giornali. La prima è che il governo è andato 5 volte sotto alla Camera, tanto che il Riformista titola, facendo il verso ai calcistico, ai 5 gol del Barcellona al Real Madrid, la manita, cioè la manita, la mano, 5 volte sotto, maggioranza in difficoltà, 5 stop alla Camera, titolo del Corriere, gli occhi sono tutti puntati sui responsabili, 12 di loro non c'erano. Al Fatto Quotidiano Arturo Iannacone dice: non trovavo parcheggio, sono arrivato in ritardo. Bruno Cesario dice: io ero alla riunione con Tremonti. Al Messaggero Maria Grazia Siliquini, dei responsabili, dice: ho perso l'aereo, sono arrivata un po' più tardi. Il ministro Romano dice: io mi occupavo di agricoltura, ho visto su televideo e ormai la frittata era fatta. Sta di fatto che insomma paiono un po' delle giustificazioni che infatti Libero inchioda così. I sabotatori, pagina 4, capricci da irresponsabili. Tanto che Maurizio Belpietro fa l'editoriale di prima pagina dicendo: sono giochi pericolosi, cercano poltrone ma rischiano il posto. Se tra 2 settimane si torna a votare a Milano e Napoli, se il centrodestra riesce a farsi sfuggire l'una e l'altra città, non ci sarà più nulla da reclamare né incarico da conquistare. Ci sarà solo da far le valigie, naturalmente con responsabilità, vale a dire in fretta. Quindi l'avviso di Libero è: attenzione a tirare troppo la corda ai responsabili, perché se poi tra 2 settimane il centrodestra perdesse anche Napoli e Milano, questa è l'analisi di Libero, c'è il rischio che crolli il governo, e quindi altro che reclamare poltrone. Tra l'altro tutti i giornali fanno sapere che all'interno dei responsabili, perché siccome ci sono pochi gruppi, pochi partiti, partitini, sottopartiti nel Parlamento, pare stia arrivando una scissione, per cui capitanati da Belcastro sta per nascere la Lega del Sud all'interno dei responsabili, quindi qualcuno che si stacca all'interno dei responsabili e farà un nuovo partito, un nuovo gruppo, diciamo, non neanche un gruppo, un nuovo sottogruppo dei responsabili. C'è anche il giallo relativo a tale Roberto Marmo all'interno dei responsabili, che veniva dato come 30° responsabile in arrivo per 3 ore ieri, poi di colpo ha deciso: no, aderisco al PDL. Ci sono anche questi misteri, colloqui politici e cambiamenti repentini di opinioni. Il secondo fatto politico è che ieri per la prima volta ha parlato Umberto Bossi dopo le amministrative del primo turno. Non ha ancora parlato Berlusconi, tanto che il Foglio in prima pagina titola: il Cavaliere non trova la parola giusta per rimediare alla sconfitta nell'analisi politica. Silvio Berlusconi, scrive il Foglio, non ama mettere la faccia su funerali sconfitte, dunque non stupisce troppo il suo contegno a dir poco riservato degli ultimi giorni. D'altronde nessuno all'interno del PDL ha la forza di mettere la firma in calce a una manovra che preluda al troppo evocato 25 luglio del Cavaliere, escluso Giulio Tremonti, che tutto proietta oltre il 2013 le proprie ambizioni, escluso Umberto Bossi, che ringhia ma non vuole mordere e dice: non fatevi illusioni, la crisi di governo non ci sarà. Insomma, il silenzio di Berlusconi. Mentre Bossi ieri che cosa ha detto? Ha detto: vinceremo il ballottaggio a Milano, non fatevi illusioni, appunto, il governo non cadrà. Però ha detto anche questa terza frase, con la quale titola Il Sole 24 Ore, pagina 11: certo, il Popolo della Libertà non ci trascinerà a fondo. Poi le critiche anche alla campagna sbagliata, ma niente crisi. Pare che oggi, finalmente, in Consiglio dei Ministri, si vedranno Berlusconi e Bossi. Le analisi ovviamente sono tutte su quella frase: il PDL non ci trascinerà a fondo, secondo La Stampa con Giovanni Cerutti a pagina 3, il premier è indebolito e il senatura aspetta solo il momento buono. Cioè la strategia della Lega sarebbe quella di dire, di queste quattro frasi, proprio l'ultima, quella non ci faremo trascinare a fondo, è quella che agiterà queste 11 giornate sia sotto che sopra il Po, racconta Giovanni Cerutti. L'idea di non farsi trascinare, non far precipitare nel burrone che potrebbe aprirsi il 30 maggio e abbandonare il governo Berlusconi, abbandonare lo stesso Berlusconi, da qui a farlo ce ne corre. Certo, però all'interno della Lega, scrive Cerutti, il movimento anche è abbastanza diviso, il partito è abbastanza diviso, c'è chi dice dovevamo aprire proprio questa nuova fase, questa nuova idea. Il titolo della Padania è questo: le 10 giornate di Milano, Lega agguerrita verso le urne del 29 maggio. Ma la Padania mette appunto anche questa frase di Bossi in primo piano: certo, non ci faremo trascinare a fondo. Quindi insomma i due fatti politici sono il governo sotto la Camera 5 volte e la strategia per le amministrative. Tra l'altro c'è Frattini, il ministro degli esteri, che è intervistato dal Corriere a pagina 9, dice un po' l'autocritica che fanno molti su questa campagna elettorale all'interno del PDL: siamo caduti come polli. Riuscire a trasformare Pisapia nell'icona del moderatismo e la Moratti in quella dell'estremismo è stato un paradosso nel quale siamo caduti come polli, così dice Frattini. Pisapia invece fa la prima intervista sulla Stampa, pagina 7 di Repubblica, e parla tra l'altro insomma di come pensa di vincere il ballottaggio e anche di questa campagna. Mi aspetto di tutto ora, l'uso della menzogna è un'abitudine del centrodestra, ma nel mio caso non gli ha portato fortuna. Nonostante questo non mi pare che stiano cambiando, prima hanno colpito la mia persona, ora la mia politica. Nuovi manifesti accusano che con me governerà Leoncavallo, un centro sociale, esponenti del PDL mi danno dell'estremismo. Insomma, Pisapia dice: temo e ci saranno nuovi colpi. Tra l'altro, guardate oggi come Libero lo mette in prima pagina in una vignetta. Pisapia è ritratto così: la maglietta di Che Guevara, la bandiera comunista che sventola nella mano destra, e in testa ha un turbante musulmano, no? Perché si dice anche Pisapia, in uno dei punti del programma, vuole la moschea a Milano. Non è un terrorista, ma c'è da aver paura, così titola Libero. E poi ci sono ancora da notare politicamente il terzo polo, che ufficialmente dice al secondo turno saremo neutrali, e che cosa fa? Si spacca, perché ci sono due esponenti finiani, Ronchi e Urso, che per la verità non si sono mai perfettamente pare integrati in questo progetto di Future Libertà, che sono dati in procinto di tornare all'interno del Popolo della Libertà, o comunque di spaccarsi, di uscire da Future Libertà. Soprattutto titola il Corriere a pagina 13: Ronchi se ne va dal vertice di Future Libertà, basta, troppi vincoli, ho letto su di me le peggiori accuse da parte dei miei colleghi di partito, mi hanno chiamato cane, mi hanno detto torna dal tuo padrone ad Arcore. Insomma, un Ronchi sicuramente amareggiato. Anche Beppe Grillo, intervistato dal Fatto Quotidiano a pagina 6 da Ferruccio Sansa, dice: siamo pronti a governare, ora basta chiederci il voto per il ballottaggio, dicono che abbiamo gli stessi ideali di Berlusconi, mi fanno pena, ma dov'erano quando si votavano l'indulto, lo scudo fiscale, questo riferito alla sinistra. E poi sono stufo di questa storia che togliamo voti ai partiti. Guardi che noi di voti e di consenso ne prendiamo anche da gente che voterebbe Lega. E dice Beppe Grillo, di fatto, lasciateci stare, non chiedeteci più il nostro voto per quel che riguarda il ballottaggio, perché certo anche il movimento di Beppe Grillo ha preso tanti voti che fanno gola per i ballottaggi. Va bene, questo è quello che ci propone il piatto della politica. In primo piano. Il Sole 24 Ore oggi apre su una novità per quel che riguarda la lotta all'evasione fiscale. Il fisco accelera sui controlli, questo è il titolo. Per i controlli il fisco punta che cosa? Scrive il Sole: al contrasto all'evasione calibrato sulle diverse categorie dei contribuenti, da 2000 grandi imprese fino alle persone fisiche, con accertamenti legati anche al tenore di vita, passando poi per medie e piccole imprese, autonomi e professionisti. Per le grandi aziende quest'anno il fisco sottopone a tutto raggio 2/3 della platea interessata, mentre per l'anno prossimo si prepara a metterle tutte sotto osservazione. Per quel che riguarda il nuovo redditometro, l'agenzia avverte che occorre aspettare il 2012 per avviare i controlli. Attenzione anche sulla riscossione, una stretta sui contribuenti che non pagano le rate. Tutti i dettagli sono a pagina 3 del Sole 24 Ore, li scrive bene Antonio Criscione. È questa circolare del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera che prevede tutte le nuove novità per contrastare la evasione fiscale. Voglio anche sottolineare, per il secondo giorno consecutivo il Sole dedica una pagina a questa vicenda, che tra l'altro sarà trattata da Deborah Rosciani oggi alle 9, sostituisce anche oggi il nostro Oscar Giannino. Su questa vicenda tipicamente italiana di blocchi, di opere, di blocchi, di infrastrutture, quella che è denominata la sindrome NIMBY, Not in My Backyard, quella che porta a bloccare progetti. Gli ultimi due casi sono quelli della centrale di Porto Tolle e il centro IKEA in provincia di Pisa. Scrive Jacopo Giliberto in prima pagina del Sole: è passato quasi un quarto di secolo, 24 anni, da quando l'Esselunga decise di aprire un supermercato a Cusano Milanino. Non c'è ancora, bloccato da sindaci neghittosi, da funzionari timorosi. Una dozzina d'anni per la British Gas a Brindisi. Comune, provincia e regione si oppongono al rigassificatore. 5 anni per lo zuccherificio aretino di Castiglion Fiorentino, fermato dalla regione. È questo il fenomeno nuovo. Più dell'opposizione dei comitati locali descritti dalla sigla NIMBY, oggi fermano 320 progetti, soprattutto le amministrazioni pubbliche. Questa è la novità analizzata oggi dal Sole 24 Ore, cioè che prima erano magari i comitati, le associazioni ambientaliste, molto spesso questi cartelli di cittadini, liste civiche, eccetera. Ora invece sono sempre più proprio le amministrazioni comunali, provinciali, regionali a fermare i progetti. Sale la protesta a Porto Tolle e ne parla un'intera pagina, a pagina 19 il Sole, con questo censimento a scoprire che sono sempre di più gli amministratori che arrivano a dire nel 60% dei casi no ai progetti di infrastrutture. E spesso chi sono quelli che si oppongono di più? Sono i vicini di comune o i vicini di provincia rispetto al progetto, rispetto al luogo dove il progetto si deve fare. Il comune interessato spesso è favorevole o contrario, nella metà dei casi il 50%, ma arriva il comune confinante a fare ricorso nell'89% dei casi, quindi anche con gelosie, invidie. Siamo l'Italia dei campanili storti, bisognerebbe dire, dei campanili conflittuali, e molto spesso quindi un progetto che paradossalmente va bene al comune magari deve coinvolgere anche per un sì il comune confinante. Nell'89% dei casi, se va bene al comune dove deve andare il progetto, il comune confinante, per motivi insondabili, inspiegabili, di invidia, di gelosia, non lo so, dice di no. Comunque Deborah Rosciani ne parlerà alle 9. La telenovela Strauss-Kahn continua. Beh, abbiamo sentito, non trovate sui giornali la notizia, che però è la notizia di questa mattina alle 6:24 del mattino. Dominique Strauss-Kahn si è dimesso, ha mandato una lettera al Fondo Monetario Internazionale dal carcere formale in cui rassegna le dimissioni. Dice: proverò comunque la mia innocenza. C'è la nuova e continua polemica, perché oggi c'è una nuova udienza, pare che verrà portato con i ceppi ai piedi, cioè dopo le manette verrà esibito con i ceppi ai piedi, e c'è tutto un dibattito. Insomma, in Europa ci si scandalizza, in America questo, ripeto, come ho detto 2 giorni fa, viene considerato, cioè ci si scandalizza qualcuno anche lì, ma insomma un po' normale, non una cosa di cui scandalizzarsi. C'è anche questo sospetto incredibile ora che aleggia e per il quale il quotidiano nazionale apre in prima pagina: incubo AIDS. È perché pare che la donna con la quale ha avuto sesso, vedremo se è consensuale oppure forzato, Dominique Strauss-Kahn vive in un appartamento che in genere viene assegnato alle persone che sono sieropositive. Ora, nessuno, perché non se ne conosce ancora l'identità, ha accertato se sia o no sieropositiva, ma c'è un alto sospetto che questa persona sia anche sieropositiva, e dunque tutti i giornali titolano, anche il Giornale: ora l'incubo AIDS toglie il sonno all'imputato star, a pagina 16 Luciano Gulli. E c'è anche Ma insomma, oggi è il giorno dopo Lars von Trier, è il giorno degli idioti, veramente. L'idiozia si è sparsa un po' a livello internazionale con un ministro britannico, il ministro della giustizia britannico, Kenneth Clark, che disquisendo un po' sul date rape, cioè lo stupro che avviene quando due persone si conoscono, ha detto: beh, questo è meno grave dell'aggressione a uno sconosciuto. C'è stupro e stupro. Questo ha detto il ministro della giustizia Kenneth Clark, disquisendo sulle varie tipologie e differenze di stupro possibile e suscitando ovviamente una polemica molto molto feroce in Gran Bretagna. Poi, come al solito, come si fa in sti casi, ha chiesto un po' scusa, eccetera. Vabbè, noi parleremo nel nostro sondaggio, vi ricordiamo, del tema pedofilia e chiesa dopo il caso d'arresto di Don Riccardo Seppia a Genova. Tra l'altro oggi Davide Rondoni, in un editoriale di Avvenire che vedremo alle 8.30, risponde in maniera molto dura alle parole di Francesco Merlo, che ieri su Repubblica diceva: questo è il problema dell'omofobia della Chiesa che porta a queste situazioni. Noi vi chiediamo: secondo voi la Chiesa fa abbastanza contro i preti pedofili? Perché ci sono tante direttive nuove di Papa Benedetto XVI, ma c'è anche l'accusa che spesso viene rilanciata di omertà all'interno della Chiesa. Votate, ne parleremo alle 8.30. Da cosa voglio dare per concludere? Beh, una bella notizia, una bella o brutta notizia, dipende da come la vogliate leggere. Sul Quotidiano Nazionale, a pagina 14, supplenti senza stipendio, gli studenti dicono: lo paghiamo noi. Succede a un istituto d'arte, Amedeo Modigliani di Giussano, in provincia di Monza. Giussano è una città di circa 20.000 abitanti, dove gli studenti, visto che non ci sono i soldi per pagare gli stipendi, gli ultimi stipendi a 10 supplenti, hanno messo mano al portafogli, hanno utilizzato il fondo di cui aveva a disposizione la scuola, no? un fondo che era rimasto lì, e hanno detto: pagate con questo fondo, con soldi praticamente degli studenti, pagate questi stipendi. Una bella notizia per il gesto di solidarietà, se volete anche una brutta notizia, perché insomma che la scuola non abbia gli stipendi per pagare 10 supplenti che hanno fatto il loro lavoro, insomma, dipende, leggetela come volete. 24 mattino, l'intervista. Sono le 8:21 minuti e 30 secondi, eccoci qua cari ascoltatori. Allora, nella nostra intervista, intanto io voglio salutare e ringraziare molto Franca Biglio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. È sindaco, giusto, a Marsaglia, in provincia di Cuneo. Di nuovo sindaco, sì, perché allora noi in realtà, signora Biglio, l'abbiamo chiamata anche all'ultima, di questo la devo ringraziare, ma sa perché? Sa quando succede nella vita che le persone sono poco serie e ti danno un bel pacco, come si suol dire, no? Allora sì. Ieri noi abbiamo chiamato quello che è stato per 10 anni il sindaco a Bonea, in provincia di Benevento, siccome sì, ci sono due soli mandati possibili per i comuni, che ha fatto questo ex sindaco per 10 anni, ha fatto eleggere il figlio di 18 anni che è diventato il nuovo sindaco a Bonea dall'ultima tornata elettorale, dicendo: non sa neanche cos'è una delibera, ma non si preoccupi, faccio tutto io, faccio tutto a papà. Papà che doveva essere nostro ospite oggi, e simpaticamente lo salutiamo, insomma furbescamente dico, non prenda impegni, perché se ha amministrato per 10 anni con la stessa serietà con cui prende gli impegni, Bonea sarà un disastro. Comunque, Franca Biglio, il concetto è questo: ma è normale una cosa del genere? Lei che ha presieduto e presiede ancora l'associazione Piccoli Comuni Italiani? L'ho presieduto e la presiedo ancora, come sono stata sindaco per 4 mandati consecutivi, dopodiché anch'io per effetto della legge non mi sono più potuta candidare, sì. Oggi sono di nuovo sindaco e guardi, mi dispiace, ma non la penso esattamente come lei. Questo sindaco ha fatto molto bene, intanto non ha fatto eleggere, suo figlio è stato eletto. Certo, sì, questo sì. Quindi non ci sono sicuramente in posizione, ma quando, vede, questa è una battaglia che noi abbiamo intrapreso e condotto per circa un decennio. Abbiamo cercato di spiegare al legislatore che nei piccoli comuni spesso e volentieri non c'è il ricambio generazionale, non si trova. E quando una persona si dedica ad un comune, guarda che fare il sindaco di un piccolo comune non è facile. Ma lo so, dopo due mandati dice che fare, dopo due mandati lasciare a uno che non è esperto, sì, però capisce. No, non è questo il concetto, lasciare a uno, no, noi non la vediamo così, non è il voler ad ogni costo occupare quella poltrona, perché non è una poltrona quella del comune, di un piccolo comune, è il principio, noi vogliamo difendere un principio democratico. Allora, il consenso avviene attraverso la gente, no? Sì. La gente, se vuole, ti rivota oppure ti manda a casa. Ma non è vero che la gente, che si crea un'incrostazione di potere. No, voi contrastate, questo è legittimo, la legge che impedisce di fare più di due mandati. Esatto. Però le chiedo, scusi, non è molto normale avere un sindaco, peraltro il più giovane d'Italia oggi a Bonea, che non sa neanche, va a scuola, non è ancora diplomato, e va bene, chi se ne frega, ma non sa neanche, per ammissione di suo padre, che cosa sia una delibera. Sì. Tanto ci pensa tutto il papà. Allora, quando io sono stata eletta sindaco, neppure io sapevo che cos'era una delibera. Ho imparato. Ha imparato. Ho imparato. Ho imparato perché mi sono dedicata giorno e notte, ho dato le dimissioni dal mio lavoro, mi sono trasferita in pianta stabile nel mio paesino, nel quale ormai vivo di nuovo costantemente, quotidianamente dal 1985, da quando sono stata eletta per la prima volta, e mi sono fatta la mia esperienza. Lavorando, ma lavorando sodo e dedicandomi veramente al mio paese, ho riscontrato diciamo il favore dei cittadini. Io ricordo che lei, in un periodo in cui non è stata sindaco, ricordo che lei era vice sindaco, no? però diceva decido tutto io, perché il sindaco è un ragazzo giovane. Stessa situazione, perché la mia gente ha voluto, ha concordato con me, ha dato dei segnali molto forti dicendo: Franca, candida chi vuoi. A noi non interessa chi tu candidi, l'importante è che tu rimanga in comune. Cioè, tu fai il vice sindaco, tanto decidi tutto tu, perché alla fine l'esperienza. Ho fatto il sindaco perché questo ragazzo ha accettato questa sfida, era un mio consigliere comunale, è rimasto mio consigliere comunale, oggi è lui il responsabile del gruppo comunale di protezione civile, continuiamo a lavorare in ottimi rapporti, ma perché questo è stato il volere e l'opinione. Sa, magari abbonè alle dichiarazioni del tipo: tanto anche se lui non sa niente, come faccio tutto io, non si deve neanche preoccupare. Insomma, magari sono anche il modo di porsi. Esatto. Ecco, cioè, sì, questo lo posso capire. Non entro nel merito, probabilmente è un momento di rabbia, di scoramento, che ti fa dire anche determinate cose, perché non è giusto che un sindaco di un piccolo comune, dopo 10 anni, non possa più fare il sindaco. Per quale motivo, quando il presidente della regione Lombardia, abbiamo un esempio molto chiaro, lo fa per 3 mandati, ecco, continua il suo mandato per il 3° mandato consecutivo. Allora, vede, il nostro principio è: difendiamo la democrazia, è il cittadino che decide chi e per quanto tempo lo deve governare, o altrimenti, se davvero una legge molto giusta questa, secondo i nostri parlamentari, venga estesa a tutte le cariche pubbliche istituzionali. Va bene, dopo anche 10 anni tutti a casa. Certo, noi staremmo... Allora, se tutti 10 anni, anche noi ci adeguiamo. Esatto. Anche normale, secondo lei, ma non è che magari non conosce questa storia, poi io ho il dente un po' avvelenato, mi scusi, con l'ex sindaco di Bonea in questo caso. Già nel 2006 l'ex sindaco, padre dell'attuale sindaco, si candidò alla fine del primo mandato e ad opporsi a lui c'era una sola lista civica a Bonea che era guidata dalla moglie. Cioè, l'idea è proprio di un comune, come dire, è sì, cosa nostra, sì, no? Cioè, sì, capisco quello che lei dice, sì. Però non entrare nel... Vede, ogni comune ha una propria realtà. Ma per carità, sì. E quindi... Però questo mi fa anche capire, ragioniamoci un attimo su a questo atteggiamento, mi fa anche capire che se c'era soltanto una lista civica condotta dalla moglie, vuol dire che comunque non ci sarebbero state altre liste. Sì, c'è poca e gente che fa c'era politica, l'alternativa, in poche parole. Va bene. Io intanto, signora Biglio, no, la ringrazio, sindaco, voglio ricordare, a Marsaglia, in provincia di Cuneo, presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, insomma, che pone questa, la problematica, io posso capirla, dice, perché noi soli siamo costretti dopo due mandati di sindaci in piccoli comuni dove poca gente fa politica, dove abbiamo accumulato esperienza, dopo 10 anni dobbiamo per legge passare la mano. E allora, vabbè, qualcuno, fatta la legge, trova l'inganno, qualcuno dice, comunque non è un inganno, comunque l'escamotage per continuare in qualche modo a essere amministratore. La ringrazio, buona giornata per essere stata con noi. Grazie, buona giornata a tutti voi. Ci saluti il sindaco di Bonea, giovane e anche padre, se mai lo incontra, e ha il piacere di parlarci come abbiamo fatto noi, come ci ha promesso che sarebbe stato in diretta, spegnendo ovviamente tutti i cellulari, quelli di tutti i parenti, questa mattina all'improvviso, come se fosse stato un processo questo e non una semplice intervista. Alle 8:29 ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi che dire, parliamo del problema è riemerso con l'arresto di un parroco a Genova del rapporto tra preti e pedofilia, chiesa e pedofilia. Quello che vi chiediamo è: secondo voi la chiesa fa abbastanza per contrastare il fenomeno dei preti pedofili? Perché c'è chi torna ad accusare la chiesa di omertà, quando invece effettivamente ci sono state anche molte aperture da parte di questo Papa Benedetto XVI su questo tema, molte aperture sensibili. Ma questo è quello che vi chiediamo e di questo discutiamo tra poco. Se volete intervenire, 800 24 00 24. 24 mattino. Sono le 8:36, eccoci qua, cari ascoltatori. Oggi nel nostro sondaggio parliamo di che cosa? Ci poniamo questa domanda, vi poniamo questa domanda: secondo voi la Chiesa cattolica fa abbastanza per contrastare il fenomeno della pedofilia? L'ultimo caso, insomma, ci sarà il processo, ma riguarda un parroco di Genova. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il tema, lo sappiamo, è molto delicato, ma insomma ne parliamo con due ospiti che voglio salutare. Intanto Don Valentino Porcile, buongiorno e benvenuto Don Valentino. Buongiorno a tutti. È parroco della Chiesa Santissima Annunziata di Sturla a Genova, è anche una persona che è molto attiva su questo tema, per cercare di constatare questo tema. Tra l'altro era amico di seminario, compagno di seminario di Don Riccardo Seppia, che è stato arrestato appunto venerdì con accuse gravissime, quelle di violenza sessuale su minore, cessione di sostanze stupefacenti. Voglio salutare anche un giornalista, autore di un saggio che si intitola Chiesa e pedofilia. Si chiama Federico Tulli, che saluto, buongiorno Tulli. Salve, buongiorno a tutti. Edito dall'Asino d'Oro, è un saggio che appunto tratta di questo tema. Intanto Don Valentino, io faccio la domanda che si pongono tutti, che è emersa dai giornali. Lei che già in un'intervista ieri a Repubblica diceva: conosco bene Don Riccardo, l'ho conosciuto in seminario. La domanda che si pongono tutti è, l'ha fatto ieri Francesco Merlo su Repubblica con toni durissimi, ai quali risponde oggi in un editoriale su Avvenire Davide Rondoni, magari leggeremo un brano, a dire: ma come mai la Chiesa, i vertici della Chiesa, i vescovi, le persone della Chiesa ai diversi livelli non si sono accorti di una cosa che adesso si dice all'interno della parrocchia, molti dicono vabbè ma si sapeva. Allora l'accusa è quella di omertà. Don Valentino. Ma è la domanda che ci facciamo tutti, sapete, è la domanda che ci facciamo anche noi confratelli, di chiederci com'è possibile che una persona arrivi a tanto senza lasciar trasparire nulla in certi momenti, perché vede, a livello di gente in tutte le parrocchie, ma in tutti gli ambienti, no? Capita che ci siano voci che corrono a destra e a sinistra, ma un conto sono le voci, un conto invece quando ci sono dei fatti circostanziati. Io conosco situazioni nelle quali dei parrocchiani che hanno interessato i vertici della curia per determinate situazioni anomale all'interno della parrocchia, quando non si rimane a livello di voci ma si arriva invece a parlare e a parlare, ad affrontare le cose in maniera seria, come andava affrontata questa situazione, i provvedimenti sono stati presi. Quindi qui evidentemente, per quello che conosco io, i vertici della curia, per quello che ho a che fare io, posso dire in prima persona che se si portano dei fatti, se l'interesse viene portato a un certo livello, diciamo così, che non rimane a livello di chiacchiere o a livello del si sapeva, gli interventi sono stati fatti. Quindi gli interventi ci sono laddove ci sono degli elementi un po' più concreti e non delle parole, delle voci. Sì, evidentemente se qualcuno conosceva delle situazioni precise, circostanziate, quello che è mancato il collegamento con l'alto. il collegamento con l'altro. Poi se vuole risponde anche all'accusa, non so se ha letto ieri Francesco Merlo su Repubblica, che praticamente dice l'emblema di Don Riccardo è figlio di una sessuofobia che ha la Chiesa Cattolica, cioè un atteggiamento nei confronti del sesso, e questo a vari livelli, a partire dai seminari, molto molto molto chiuso. Lei in realtà ha raccontato che un qualcosa del genere, cioè una mancata educazione, forse può essere alla base di queste problematiche, o no? Certamente sì, ma non solo a livello di seminario, a livello anche di Chiesa, fino a un po' di tempo fa, e in alcuni ambienti ancora adesso si ha proprio paura di parlare di questo aspetto della vita, e io credo che come Chiesa dobbiamo liberarci da questo. Cioè, io stesso quando a volte durante la messa tiro fuori una riflessione su questi aspetti della nostra vita, molti diciamo li capiscono, li accolgono, molte persone rimangono ancora, come dire, sono cose che non bisognerebbe neanche nominare. Com'è la frase di San Paolo che ieri lei ha citato e che spesso veniva ripetuta in seminario quando si parlavano di queste cose? Sì, e net nominetur in vobis, non se ne parli neppure tra di voi. Non se ne parli neppure tra di voi. Ed è un atteggiamento sbagliatissimo, perché come tutti gli altri aspetti formativi, questo è un aspetto della nostra vita. E anche di questo bisogna parlarne, non solo per quello che riguarda la formazione dei sacerdoti, anche se, ripeto, negli ultimi anni, negli ultimi cicli di vescovi è cambiato tantissimo questo sotto l'aspetto formativo, sì, sui seminari. Sì. Però anche a livello di Chiesa siamo ancora a un livello, diciamo, troppo alto di timore di parlarne. Bisogna essere sereni nel parlarne. Allora, io, Federico Tulli, come detto, ha scritto questo saggio con una prefazione, tra l'altro, di Adriano Prosperi, che scrive, l'autore del libro è parte da questo saggio, scandalizzato per il silenzio, le attenuazioni, le coperture, le mezze misure che hanno circondato in Italia la speciale questione criminale dei preti pedofili. Allora Tulli, è davvero così? C'è un'omertà di fondo, di autoprotezione da parte della Chiesa Cattolica che lei ha riscontrato? Sì, dunque c'è un'omertà di fondo che ecco, proprio in questi giorni la Chiesa, in particolare la Congregazione per la Dottrina della Fede, sta cercando in qualche modo di scardinare, mi riferisco alla pubblicazione di questa lettera circolare che porta le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici. Però ecco, per diciamo così, per circa 500 anni la legislazione canonica ha favorito in ogni modo il discorso della segretezza su questo determinato crimine. Proprio il professor Prosperi, ecco, nella premessa al mio libro, punta sulla nascita del Tribunale dell'Inquisizione che diciamo segna una svolta fondamentale, cioè da quel momento questo tipo di crimine, che per la Chiesa Cattolica è un peccato, viene giudicato da un tribunale speciale seguendo procedure segrete. Ecco, procedure che, vogliamo chiarire una cosa rispetto a questo documento importante, che appunto dice di estrema apertura su questo tema, di estrema volontà di volerlo affrontare da parte di questo Papa in maniera, voglio dire, anche di petto. Questa circolare appunto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Le chiedo, Tulli, c'è una questione che molti ci pongono, a dire: ma come, appena uno viene a sapere la voce di un eventuale reato di questo genere dovrebbe andare a denunciare? Ci spiega in Italia come funziona? Perché c'è la questione che non è vero che tutti sono obbligati a denunciare un'ipotesi di reato, no? Per esempio, se uno non è un pubblico ufficiale, no, e se non ha funzione da pubblico ufficiale, no. Per esempio, il preside di una scuola deve denunciare se ha una voce di questo genere? Sì, perché è un pubblico ufficiale, no? Esattamente, la lettera sicuramente porta degli aspetti positivi rispetto al passato, cioè, la Chiesa prosegue con un'operazione di trasparenza, nel senso appunto porta al pubblico la conoscenza di un problema interno proprio alla Chiesa, un grosso problema, un grave problema, cosa che fino a 10 anni fa non era, perché certe procedure erano conosciute solo all'interno della Chiesa e soprattutto solo ai vertici, cioè dai vescovi e ai cardinali in su. Ecco, la questione della denuncia è un passaggio fondamentale, dell'obbligo di denuncia. In questa lettera la congregazione si rivolge alle conferenze episcopali di tutto il mondo e le invita, diciamo, le obbliga in qualche modo a emanare a loro volta delle linee guida per adeguarsi alle leggi dei loro paesi, uniformarsi alle leggi dei loro paesi, e questo non significa però obbligo di denuncia di un reato di cui vengono a conoscenza, perché appunto lei diceva, ad esempio in Italia il preside di una scuola, se viene a conoscenza di un eventuale abuso subito da uno scolaro, ha l'obbligo di andare a denunciare il fatto alla magistratura. Mentre un vescovo non è un pubblico ufficiale, quindi diciamo l'obbligo legale non ce l'ha. Ecco, questo è un punto importante da cui vorrei ripartire dopo le informazioni sul traffico da Don Valentino Porcile, perché anche in questo caso spesso si dice, quando invece più delle voci, quando gli elementi diventano un po' concreti all'interno di una parrocchia, magari il parroco non va alla questura, non va dalla polizia dei carabinieri, va dal proprio vescovo, semmai dai propri vertici, all'interno della propria gerarchia, a informare della situazione. È la procedura giusta? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, detto che secondo i nostri ascoltatori l'85% pensa che la Chiesa non faccia abbastanza per contrastare questo problema, se c'è al proprio interno, vorrei sentire Cinzia da Taranto, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, innanzitutto premetto che sono credente, praticante, quindi non avrei, diciamo, motivo di scagliarmi contro questo atteggiamento che ritengo molto blando da parte della Chiesa. In cosa lo trova blando? Lo trovo blando nella sua propria forma, nell'aspetto formale con cui vengono affrontate poi eventualmente queste situazioni, perché spesso e volentieri si è sentito di preti, di sacerdoti posti magari in isolamento oppure spostati, trasferiti. Questo, guardi, le assicuro che accade in tutte le città. Cioè, non denunciati, ma piuttosto si risolve all'interno, o in passato spesso si è risolto all'interno della gerarchia. Sì, all'interno poi della gerarchia stessa, lì dove appunto ci si rivolgeva. Tra l'altro, io vorrei anche sottolineare che spesso i danni e gli abusi avvengono proprio nei confronti di ragazzi, di bambini che provengono da famiglie disagiate e vengono affidati a queste parrocchie per insomma svariati motivi, e purtroppo delle volte capita, forse spesso, questo ancora non si riesce bene a comprendere, spesso capita che poi queste persone non possano difendersi adeguatamente, là come faremmo noi magari genitori. Vabbè, Cinzia, io devo dire, e sono sempre casi minori, casi rari, no, vogliamo dire, adesso non è che c'è una statistica, però insomma purtroppo poi i casi come la vicenda di Don Riccardo ovviamente da giorni e giorni sta sui giornali, no, questo lo diciamo per spezzare una lancia nei confronti della stragrandissima, che non si può dire ma lo dico lo stesso, maggioranza dei parroci, dei preti italiani che insomma si comportano in maniera integerrima. Grazie Cinzia. Massimiliano da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Mi attacco all'ultima cosa che lei stava dicendo adesso. Sì. Credo che si corra il rischio di una generalizzazione eccessiva che fa perdere di vista la gravità della cosa, generalizzando e dicendo tutti i preti sono pedofili, cosa che si è letta anche... Cosa che però insomma sa, poi la stupidità, la generalizzazione esistono sempre, però noi non facciamo lo so, però lei capisce che è un rischio grosso. Tra l'altro mi pare di poter dire che la Chiesa, ma questo Papa in particolare, sul peccato che è all'interno della Chiesa stessa, mi pare che ne abbia dette... Ieri la circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede, certo, che vuole proprio accelerare anche su questo tipo di contrasto. Comunque, insomma, il rischio della generalizzazione lo capisco e la ringrazio di questo, Massimiliano. Vorrei chiedere ancora a Don Valentino Porcile allora questo. Perché effettivamente ci sono stati dei casi in effetti in Italia la legge non prevede l'obbligo da parte di un parroco, che ne so, se viene a sapere che un altro parroco è coinvolto in queste cose in maniera un po' concreta, secondo lei deve andare dal vescovo, dalla sua gerarchia, oppure deve andare alla più vicina caserma dei carabinieri o della polizia? Ma guardi, intanto aggiungo una cosa a quello che ha detto Massimiliano. Sì. Vale a dire, non solo c'è questa apertura, ma Benedetto XVI riguardo a questo ha detto una cosa che mai nessun Papa aveva detto nel passato. Vale a dire, chi commette questi tipi di reato si è consegnato alla giustizia. Questo, questo è vero, veramente è la chiave di svolta che io credo rimarrà scritta nei libri di storia, della storia della Chiesa, della storia contemporanea nei prossimi decenni, perché che il Papa arrivi a dire una cosa di questo genere su un tema così, Giovanni Paolo II non l'aveva mai detta, una cosa così. Quindi diciamo, questa è veramente una svolta decisiva. Riguardo invece all'argomento che mi chiede lei, guardi, io le dico per esperienza personale che al di là della forma o della non forma, se un sacerdote tiene sul territorio anche un collegamento con le forze dell'ordine, tanti problemi si risolvono e si affrontano in rete insieme. Io questo lo dico per esperienza personale. Mi sono trovato a dover gestire delle situazioni estremamente problematiche nel quartiere dove ero prima e due quartieri dove ero prima, a Cornigliano e anche a Quarto Alto negli anni scorsi, che se io non avessi avuto un rapporto diciamo stretto, continuo con le forze dell'ordine a livello proprio concreto, quotidiano, sì. Sarei rimasto completamente da però solo. Però voglio dire, è una sua scelta personale, insomma, cioè ha deciso così, però non è una direttiva che viene impartita dall'alto, ecco. Se ci fermiamo ai pezzi di carta, anche se mi dovessi fermare ai pezzi di carta e dovessi andare ad un ufficio pubblico, da una forza dell'ordine a denunciare determinate cose, è un modo di affrontare le cose. Se invece si tessono dei rapporti, si tessono delle relazioni, il modo di affrontare le situazioni è radicalmente diverso. Abbiamo affrontato situazioni di tantissimo genere, di droga leggera, di violenza su minori, abbiamo di pericolo per i minori, quindi di prevenzione sui minori, con le forze dell'ordine, che è stato un lavoro in rete stupendo che ha dato dei risultati efficaci. Capisce? Al di là di quella che può essere la norma o la non norma, non dobbiamo fermarci, certo, questo, certo. Dobbiamo darci da fare, e questo risponde alla signora che dice che tante volte i ragazzi vengono affidati alle chiese, poi la Chiesa quanto fa? La Chiesa quando fa a livello sociale, quanto chi ci crede si mette da fare? Certo, ma questo non è messo in dubbio, infatti io lo voglio anche ribadire, Don Valentino. Io ho 30 secondi, mi vuole rispondere, so che in 30 secondi insomma è una tematica molto ampia, ma molti la ripongono a dire è il celibato il problema che può generare anche questo rapporto con la sessualità distorto in alcuni rari casi. Mi dica, Don Valentino. Viene dalla cronaca di tutti i giorni. La pedofilia tocca tutti gli ambiti di tutte le persone, anche sposate. Non è il matrimonio la soluzione a questo problema. La pedofilia è una perversione, è una devianza e va trattata come tale. La risposta è chiarissima e allora è anche meno dei 30 secondi, di questo la ringrazio. Io allora mi voglio fermare qui ringraziando, ripeto, Don Valentino Porcile, che è parroco della Chiesa Santissima Annunziata di Sturla, Genova, e Federico Tulli, di cui voglio ricordare ancora il saggio Chiesa e Pedofilia, l'Asino d'Oro Edizioni, sono stati con noi. Che dire, la discussione continua su 24 Mattino, è la nostra pagina di Facebook, ci trovate lì, andate, siamo quasi a 3.000, siamo... 3.000, non lo so, forse ci siamo arrivati. C'è Alessandro Longoni lì che spera di arrivare a questi 3.000. Io vorrei capire invece dove è finito Peter, il nostro alpino. Vabbè, insomma, magari ci manderà qualche suo sonoro, magari da domani. Intanto ringrazio Filippo Aureggi in regia, Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione. E che dire, do la linea a Deborah Rosciani. Vedi anche dove è finito Oscar Giannino. No, arriva settimana prossima Oscar Giannino. Do la linea a Deborah Rosciani, che conduce anche oggi 9 in punto, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.